Sai in rap presenta, presenta 2011 aiuto. A chi ti appoggerai quando chiederai aiuto? Che cosa farai quando chiederai aiuto? Troppo tardi ormai quando chiederai aiuto. Chi ti appoggerai quando chiederai aiuto? Che cosa farai quando chiederai aiuto? È troppo tardi ormai quando chiederai. Ehi, lassù chi c'è, chi può aiutare il rap? C'è me, mi chiamo da quel posto dell'universo piccolo e tondo. Noi umani lo chiamiamo mondo. Io non so che soprannome ci avete dato, ma non sappiamo nemmeno qui chi ci ha buttato. Può darsi che questa terra sia la brutta copia di un mondo perfetto, ma non voglio essere parte di uno schizzo fatto da un artista incerto. E dal momento che mi avete creato, come nei film voglio un ruolo sensato. Sì, voglio stoppare i terremoti, voglio assistire gli idioti, fermare l'inquinamento globale, salvare la foresta pluviale, la popolazione marina, tappare il cammino della dieta ghentina. Perché c'è molto da fare, anche con l'Africa che ha fame, qualcosa la deve mangiare. Poi installare il sistema con il pannello solare. E poi, ho capito, non si può fare. Ok, troppo, mi ritiro, però chiedo aiuto. Aiuto, a chi ti appoggerai quando chiederai aiuto. Che cosa farai quando chiederai aiuto? È troppo tardi ormai quando chiederai aiuto. Chi ti appoggerai quando chiederai aiuto. Che cosa farai quando chiederai aiuto. È troppo tardi ormai quando chiederai. Mi chiedo se Dio può sognare. Può darsi che un giorno solo lì mi potrò incontrare. Almeno della mia situazione gli potrò parlare. Ma lascio perdere, forse Dio è morto, o semplicemente si sarà stancato di questo mondo contorto. Io vedo altri momenti difficili chiusi in una chiesa, proprio quando la loro vita diventa un'impresa. Ed è per questo che qualcuno da lassù ci può aiutare, ma non lo fa perché qualcosa la dobbiamo imparare. Passiamo le cazzate agli scempi, è prefissata per il 2012 la fine di tutti i tempi. Non è che per caso ci state già facendo gli esempi. Esempio non esempi, a questa data io non ci credo. Sembra che state giocando a SimCity con il vostro alter ego. E se permettete voglio giocare anche io e mi aggrego. Faccio la parte di quello che sono, un ambientalista, e ogni errore climatico non lo perdono. A chi ti appoggerai quando chiederai aiuto? Che cosa farai quando chiederai aiuto? È troppo tardi ormai quando chiederai aiuto.